Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Emanuela Orlandi è una ragazzina di soli 15 anni, lunghi capelli scuri, una fascia nera sul capo, un sorriso sereno. Emanuela Orlandi è figlia di Ercole Orlandi, un commesso della prefettura della Casa Pontificia, e di Maria Orlandi. È cittadina vaticana. Conduce una vita normale come tutti i suoi coetanei. Frequenta il secondo anno di liceo scientifico in un istituto parificato di Roma. Per 3 pomeriggi alla settimana segue le lezioni di pianoforte al Tommaso Ludovico da Vittoria, scuola collegata al Pontificio Istituto di Musica Sacra. Canta nel coro della chiesa di Sant'Anna, nella città del Vaticano. È mercoledì 22 giugno 1983. Per raggiungere la scuola di musica, Emanuela Orlandi prende un autobus. Scende dopo poche fermate e percorre 300 metri a piedi. Di solito è puntuale, ma la lezione di quel giorno ci arriva con 10 minuti di ritardo. È affannata, tesa, scura in volto. La lezione non è ancora terminata. Durante una prova di canto corale, Emanuela Orlandi lascia l'aula e telefona a casa. Vuole parlare con la madre Maria, ma lei non è presente. Così racconta alla sorella Natalia Orlandi un fatto strano. Un signore l'ha fermata per strada. Le ha proposto un lavoro: distribuire volantini della casa di cosmetici Avon durante una sfilata di moda. Il compenso è esorbitante per quel tempo. 375.000 lire. Troppi per una ragazzina di 15 anni. Emanuela Orlandi chiede al professore di canto corale di poter uscire 10 minuti prima. Emanuela si trova alla fermata dell'autobus 71 di Piazza delle Cinque Lune. L'amica Raffaella Monzi si trova di poco accanto. Adesso non me lo ricordo bene, però era vestita di blu, con lo zainetto, come è stata descritta. Lei mi ha detto solamente di un lavoro, che cercava di non dare dei volantini per l'Avon. Gli ho detto solamente che era un po' troppo per me quella cifra. Insomma, 375.000 lire mi sembrava un po' troppo per l'Avon, dare solo dei volantini. Poi Raffaella Monzi se ne va. Emanuela Orlandi resta ancora per pochi secondi alla fermata dell'autobus e alla fine sparisce nel nulla. 22 giugno 1983. Intorno alle 15.30, davanti la sede del Senato, l'agente di polizia, l'appuntato Bruno Bosco e il vigile urbano Alfredo Sambuco vedono salire Emanuela Orlandi a bordo di una BMW giardinetta, vernice metallizzata, color scuro. Alla guida dell'auto c'è un uomo con i capelli biondi, stempiato, corporatura snella, età tra i 35 e i 40 anni, viso abbronzato, altezza 1,80 m. Il vigile urbano Alfredo Sambuco racconta ciò che ricorda del 22 giugno 1983, quando si trova in servizio davanti a Palazzo Madama. Questa ragazza gli aveva chiesto l'informazione di era così, è un compagno di un signore. Il signore mi sembra che abbia avuto una valigetta, aveva qualcosa, ma non borsa, la valigetta. La mattina era un giorno. È il 23 giugno 1983, sono le 3 di notte. I familiari di Emanuela Orlandi sono preoccupati. Chiamano Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica Tommaso Ludovico da Vittoria. Chiedono notizie della famiglia. La religiosa racconta che Emanuela era parsa tesa, affannata, ed era uscita 10 minuti prima della fine regolare delle lezioni. Il 23 giugno la famiglia presenta la denuncia di scomparsa di Emanuela Orlandi. Il 24 e 25 giugno pubblica un annuncio sui quotidiani romani Il Tempo, Messaggero, Paese Sera. 25 giugno 1983. Sono le 18. Al numero privato della famiglia Orlandi giunge la telefonata di un certo Pierluigi. Dice di avere 16 anni e riferisce di un incontro tra la sua fidanzata ed Emanuela Orlandi a Campo dei Fiori. Pierluigi offre una serie di particolari su Emanuela. Capelli neri, la borsa con il flauto, gli occhiali. Pierluigi non sembra avere però 16 anni. Il suo linguaggio è da adulto, la voce profonda. 2 giorni dopo, altra telefonata all'utenza privata della famiglia Orlandi. Un certo Mario afferma di aver visto un uomo con due ragazze che vendevano cosmetici. Una di loro gli avrebbe raccontato di essere fuggita volontariamente da casa. Ecco la registrazione inedita con la voce del cosiddetto Mario. Allora, fatto, no, loro lo sanno, me ne sono andata perché mi fanno, perché c'era a questo punto, non sapeva a casa loro. Mi fanno, no, ma perché stava una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che me ne andavo. Quella ragazza potrebbe essere Manuela? Pierluigi e Mario si conoscono, potrebbero far parte della stessa organizzazione. La famiglia non perde la speranza. Il 30 giugno dell'83 affigge a sue spese 3.000 manifesti sui muri di Roma. Emanuela Orlandi è ritratta con un volto allegro e solare. Si mette subito in moto la macchina investigativa. Gli inquirenti setacciano gli ambienti frequentati da Emanuela Orlandi. Vengono sentiti gli alunni del liceo scientifico, i ragazzi e le ragazze della scuola di musica, gli amici di famiglia. Emergono molti indizi, ma nessuna prova. E in quei giorni intervengono anche i servizi segreti. Un agente del SISDE, amico personale degli zii della ragazza, cerca le tracce di Emanuela. L'agente dei servizi dimostra che il biondino, l'uomo al volante della BMW color scuro, aveva raccontato a Emanuela Orlandi numerose bugie. La società Avon non era intenzionata a offrire alla ragazza un lavoro in campo pubblicitario. La sfilata della casa di moda Sorelle Fontana, nella quale Emanuela avrebbe dovuto lavorare, era del tutto inventata. L'attività retribuita con 375.000 lire non esisteva. L'agente del SISDE viene poco dopo trasferito ad altro incarico, su ordine dei vertici del SISDE. Quali verità scomode aveva scoperto l'agente del SISDE? Perché venne subito rimosso dall'incarico? Il detective Ficcanaso viene chiamato a rapporto da Emanuele Di Francesco, direttore del SISDE, e Giorgio Criscuolo, capocentro del servizio segreto civile. Viene fortemente criticato. I due dirigenti stilano inoltre una nota di demerito per avere compiuto accertamenti non opportuni sulla sparizione di Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi, unica cittadina minorenne del Vaticano, è scomparsa in un luogo simbolico, inghiottita nel cuore dello Stato italiano. Nei palazzi della Santa Sede, nei commissariati di polizia, prende corpo in quei giorni la pista del terrorismo internazionale, quella suggerita dal criminologo Francesco Bruno. Io interpreto la vicenda di Emanuela Orlandi come una, come dire, un'azione terroristica probabilmente eseguita da spezzoni di servizi segreti internazionali e con la complicità di criminali in Italia e anche a Roma, che hanno messo in atto questo rapimento e probabilmente, anche se non abbiamo delle prove sicure, l'omicidio di Emanuela Orlandi, per mettere in essere un ricatto nei confronti del Papa. Credo che intorno a questa vicenda poi si siano annodate tante altre vicende fatte di ricatti e di controricatti che sono venute fuori nel tempo e che ancora non sono assolutamente chiarite. Tra poco, dopo la pausa, il giallo e nero torna con il racconto di Emanuela Orlandi. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. La scomparsa di Emanuela Orlandi è certamente collegata all'attentato contro Giovanni Paolo II, il 13 maggio 1981 a Roma, in piazza San Pietro. La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Su una udienza generale, una delle tante affettuose udienze generali date da Giovanni Paolo II, udienza generale troncata da 4 o 5 spari in rapida successione, Il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. Lo abbiamo visto sdraiato nella vetturetta scoperta che è entrata in velocità dentro il Vaticano. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario, Don Stanislao, e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente, ed è entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campane. I vescovi che hanno creduto... Sapete, ecco, qualche minuto fa il Santo Padre è stato ferito. Nostro dovere è di pregare il Signore per lui, per la sua salute. Reciteremo insieme il Pater Noster, l'Ave Maria e il Gloria Patri in latino. Evidentemente l'emozione è stata forte, ha preso un po' tutti. Io stesso non credevo che quei colpi fossero spari, fossero proiettili esplosi contro la persona di Giovanni Paolo II. Il radiocronista della RAI chiede la linea per un'importante notizia. Un uomo nascosto tra la folla ha sparato poco prima contro Papa Giovanni Paolo II. Un solo colpo all'addome, senza ledere organi vitali. Dopo 5 ore in sala operatoria, Giovanni Paolo II è salvo. Quell'uomo è Ali Açka, turco, militante dell'organizzazione terroristica di estrema destra dei Lupi Grigi. . 17 maggio 1981, Giovanni Paolo II perdona così Ali Açka. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. . 3 luglio 1983, 2 anni dopo l'attentato di Piazza San Pietro, il Papa, durante l'Angelus, rivolge un appello ai responsabili della scomparsa di Emanuele Orlandi, ufficializzando così per la prima volta l'ipotesi del sequestro. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. 5 luglio 1983, un uomo che si fa chiamare l'Americano telefona alla sala stampa vaticana. Riferendosi alla scomparsa di Emanuele Orlandi, auspica l'intervento di Giovanni Paolo II. Chiama in causa Ali Açka, chiedendo la sua liberazione entro e non oltre il 20 luglio 1983. Lei volti bene questo registrazione. Sì, me la faccia sentire bene però. Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figliola. Poco dopo, il cosiddetto Americano raggiunge l'utenza telefonica privata della famiglia Orlandi e fa ascoltare una voce che sembra quella di Emanuela. Il 17 luglio 1983 viene fatto trovare un nastro in cui si conferma lo scambio con Ali Açka, la richiesta di una linea telefonica diretta con Monsignor Agostino Casaroli, segretario di Stato Pontificio. Alcuni giorni più tardi, in un'altra telefonata, l'Americano chiederà allo zio di Emanuela di rendere pubblico il messaggio contenuto sul nastro e di informarsi presso Monsignor Casaroli riguardo ad un precedente colloquio. Sono mesi scanditi dai comunicati del fronte di liberazione anticristiano Türkeş e dalle ambigue richieste di scambio con Ali Açka. L'attentatore del Papa, in un'udienza del processo a suo carico, racconta: Emanuela è stata rapita da agenti bulgari e dai Lupi Grigi. La calligrafia dei comunicati è del terrorista Oral Celik. È il 30 giugno 1997. L'inchiesta è chiusa. Scrive il giudice delle indagini preliminari di Roma, Adele Rando. Sussiste il fondato convincimento che il movente politico-terroristico costituisca un'abile operazione di dissimulazione dell'effettivo movente del rapimento. Il 17 gennaio 2005 l'avvocato Massimo Groc presenta alla Procura di Roma l'istanza motivata per la riapertura dell'inchiesta. Noi abbiamo presentato questa istanza per una ragione molto semplice. Intorno alla sparizione della povera ragazza si era per anni indagato in un procedimento dove l'accusa era di rapimento a scopo di estorsione. Siccome la famiglia ritiene che questo inquadramento non sia corretto, perché la famiglia Orlandi sicuramente non poteva essere oggetto appetibile di un'estorsione, abbiamo invece trovato elementi che danno la certezza che la matrice del rapimento era di tipo terroristico, abbiamo chiesto che fosse riaperta l'indagine per chiarire questo, anche perché la famiglia ha diritto di sapere con precisione come sono andate le cose. Siamo a pochi mesi fa al programma Chi l'ha visto su Rai 3. Giunge una telefonata strana, una telefonata anonima che riguarda la sparizione di Emanuele Orlandi. Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere che è sepolto nella vista della Basilica di Santa Apollinare e per favore che il relativo fece al Cardinal Poletti all'epoca. Ma di quale Renatino sta parlando il telefonista anonimo? Nel centro di Roma, nei pressi di Piazza Navona, si trova la Basilica di Sant'Apollinare. Nella cripta, dove riposano le spoglie di papi, cardinali e martiri cristiani, c'è la tomba di Enrico De Pedis, detto Renatino, uno dei capi più potenti della Banda della Magliana, assassinato il 2 febbraio 1990. Ma cosa c'entra la Banda della Magliana con la sparizione di Emanuele Orlandi? L'utenza telefonica della famiglia di Emanuela Orlandi venne raggiunta da due giovani, Mario e Pierluigi. Le chiamate vennero registrate dallo zio della ragazza. L'accento dialettale di entrambi era quello classico dei trasteverini e i rumori di sottofondo erano quelli tipici di un ristorante romano affollato. Piatti, gente, camerieri vocianti, proprio quel genere di locali che Enrico De Pedis, Renatino, possedeva a Trastevere, la cui parlata aveva tradito gli anonimi interlocutori. La pista che porta al coinvolgimento della Banda della Magliana nel rapimento di Emanuela Orlandi non è mai stata approfondita. Ferdinando Imposimato si è occupato del caso Orlandi come magistrato e ricercatore, è legale della famiglia e resta convinto che ci sia ancora molto da indagare. Concretamente si può fare molto. Prima di tutto si può capire chi era la ragazza che era con Emanuele Orlandi il giorno della scomparsa e che era una sua compagna di scuola che non è mai stata identificata e che sicuramente ha agito d'accordo con i lupi grigi. In secondo luogo, la cosa più importante che si può fare è di andare a interrogare in Germania quegli agenti dei servizi segreti che potrebbero dare una collaborazione. In terzo luogo, ci sono dei lupi grigi che sono sicuramente, secondo me, disponibili a parlare purché ci sia la collaborazione dell'autorità turca, perché sono gli stessi lupi grigi che hanno partecipato all'attentato al Papa e che sono stati assolti per insufficienza di prove perché le ragioni di Stato imponevano che questi fossero assolti. Emanuela, se fosse ancora in vita, oggi avrebbe 38 anni. La polizia ha elaborato al computer una fotografia con la trasformazione del suo volto. Oggi sarebbe una donna matura, sorridente, sempre solare. Qualcuno la sta ancora aspettando, è il fratello Pietro. Per lui il tempo si è fermato il pomeriggio del 22 giugno 1983. Ci sono passati 20 anni e più, veramente come se fossero i primi giorni. Cioè, certo, la vita è andata avanti, io adesso ho una famiglia, dei figli, perché è normale che bisogna andare avanti in qualche modo. Però siamo sempre legati a quei primi giorni. Cioè, noi adesso aspettiamo ormai che la cosa si risolva in qualche modo, giorno dopo giorno. Certo, l'unica cosa che è venuta a mancare adesso è mio padre, che poco tempo fa purtroppo è morto, e quindi dopo 20 anni di sofferenza mio padre non è riuscito a avere la gioia veramente di riabbracciare la figlia, anche se può sembrare una cosa assurda, però noi aspettiamo sempre il ritorno di Emanuela. La verità in qualche modo deve venire fuori, perché non può essere soffocata, prima o poi esce. Dopo che è successo il fatto di Emanuela, qualche mese dopo, il Papa e Sua Santità è venuto a casa nostra, a casa mio padre. Era Natale, per farci gli auguri, per starci vicino, per dirci che pregava, e alla fine ci ha detto: esiste il terrorismo nazionale e il terrorismo internazionale. Quello di suo figlio purtroppo è un caso di terrorismo internazionale. E io ero molto affezionato, andavo molto d'accordo, sono una ragazza con tanta voglia di fare, di piena di vita, veramente. Cioè, me lo ricordo proprio come una bella sorella. Spero che torni prima o poi a esserlo. Giallo e Nero di Daniele Diacchessi, montaggio di Carmelo Lauricella.